la Biblioteca Provinciale Claudio Busta di Bolzano, che ha la propria sede via Mendola 5, organizza due volte a settimana mediamente degli incontri con autori, autrici, scrittori, e Andrea Pozza, collega, tra l'altro la nostra collega, è già qualche volta, insomma, che viene a presentare i suoi libri. È un personaggio conosciuto in città per le sue numerose passioni, che coltiva anche a livello professionale nell'aeronautica, ma soprattutto anche per motivi appunto di lavoro è stato autore di alcuni libri che sono esposti lì, potete consultarli, relativi ai bunker, e riguardano questo passaggio, no, dallo Stato alla provincia di alcuni beni, sempre per quanto riguardava appunto la zona militare. E in questo modo si è scoperto tutto un mondo, anche sommerso, sotterraneo, che così il cittadino non conosceva, ma attraverso le sue foto e tutta la ricostruzione è stato possibile ancora negli anni scorsi presentarli e farli conoscere al pubblico. La biblioteca ha questa funzione, quella di creare sempre delle nuove, così, insinuare sempre delle nuove curiosità, affinché le persone possano così scegliersi dei percorsi liberamente di lettura. E noi siamo qui apposta appunto in via Mendola 5, ma ci spostiamo nella città, qui al Teatro Cristallo, oppure presso il Centro Trevi, a volte anche al Liceo Classico, per far conoscere anche un po' i nostri servizi e creare sempre delle nuove occasioni di incontro con chi scrive. Ecco, questa sera il tema è particolarmente scottante, è un libro scritto a più mani. D'attualità soprattutto. D'attualità, sì, e anche molto curioso, perché ci porterà nei meandri di basi segrete, ecco, che non erano aperte al pubblico e che solo recentemente è stato possibile conoscere da vicino per alcune persone. Attraverso questo libro ci scopriremo dei nuovi orizzonti. È un libro scritto a più mani. Andrea Pozza è appunto un bolzanino doc che segue anche, posso dirlo? Certo. Centri colori, perché sono le passioni che abbiamo in comune, ci scambiamo le foto quando le vediamo. Ecco, e niente, vi auguro una buona serata, un piacevole intrattenimento con noi, e vi invitiamo a venirci a trovare in biblioteca. La nostra biblioteca offre dei servizi anche in sede, in particolar modo quello a cui teniamo moltissimo è il BiblioWeb, cioè questa occasione, venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, di conoscere come leggere anche da casa propria o con il proprio smartphone periodici, quotidiani, giornali, anche in tutte le lingue, sono 50 e più lingue, gratuitamente. Ecco, noi siamo convinti di essere al servizio del pubblico e di dare degli strumenti affinché le persone possano muoversi poi autonomamente. Vi ringrazio e lascio la parola a Andrea Pozza. Grazie Andrea. Beh, sono io che ti ringrazio, ringrazio la biblioteca per avermi ospitato ancora una volta. E finora abbiamo parlato dell'Alto Adige nelle puntate precedenti, a parte quel piccolo excursus sul libro che raccontava un po' la mia storia di aviatore, 10 anni di fotografia aeronautica, dove lì abbiamo girato il mondo. Oggi ci troviamo invece qui a parlare sempre di basi segrete, però ci spostiamo nel Veronese. Ci spostiamo nel Veronese e andiamo a scoprire un mondo altrettanto affascinante, forse più affascinante di quello che finora abbiamo visto qui. Io mi sono preparato degli appunti perché sono molto bravo alla macchina fotografica, riesco a scrivere, però a parlare in pubblico ho qualche difficoltà, quindi mi sono fatto una scaletta, mi sono preparato un po' di cose, quindi leggerò, parlerò, insomma, vediamo un po' di andare avanti. Allora, viaggio nelle basi segrete della NATO. Se va? Non va? Va. La consapevolezza degli effetti catastrofici dell'uso delle armi nucleari originò negli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale quel confronto tra le due superpotenze vincitrici, ossia gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, conosciuto con il termine di guerra fredda. Vediamo. La guerra fredda era una contrapposizione politico-militare, economica, diplomatica, culturale e ideologica imperniata sul cosiddetto equilibrio del terrore, che portò alla costituzione di un mondo bipolare diviso tra le due superpotenze, gli Stati Uniti con la NATO da una parte, l'Unione Sovietica con i paesi aderenti al patto di Varsavia dall'altra parte. E fu una partita giocata a 360 gradi in tutti gli ambiti della società. La conseguenza, a livello strategico militare, fu la consapevolezza da parte della NATO della rinnovata importanza geostrategica assunta dall'area mediterranea e conseguentemente dell'assoluta necessità di un ruolo più influente e attivo giocato dall'Italia in seno all'Alleanza Atlantica, in virtù proprio della sua posizione geografica di cerniera all'interno del Mediterraneo. Questa attribuzione all'Italia di un ruolo privilegiato rispondeva all'esigenza della NATO di trovare un paese europeo disponibile a condividere, o almeno a legittimare, eventuali prese di posizione nel teatro medio orientale, scaricando su di esso, quindi sull'Italia, almeno una parte del peso che implica il confronto nel Mediterraneo con l'Unione Sovietica. A tale scopo, gli Stati Uniti programmarono una serie di interventi mirati ad innalzare gli stock delle munizioni italiane, a sostenere la modernizzazione delle forze armate italiane, che erano uscite dalla guerra in condizione pietosa, e ad incoraggiare un maggiore protagonismo dell'Italia nelle questioni di sicurezza e legate al mantenimento della pace, come avviene ancora oggi. Tra i provvedimenti che la NATO adottò in Italia per contenere un'ipotetica invasione sovietica proveniente dalla cosiddetta soglia di Gorizia, si annovera la costituzione dei comandi delle forze terrestri alleate del Sud Europa, conosciuta come FTASE, e della quinta forza aerea tattica alleata, la quinta ATAF, e conseguentemente la realizzazione dei siti segreti protetti di Westar e Bekjar, da cui dirigere in caso di attacco le operazioni militari in condizione di sicurezza. È importante sottolineare che i siti protetti di Westar e Backyard, pur non avendo avuto un ruolo attivo durante tutto il periodo in cui furono operativi, a causa fortunatamente dell'assenza del conflitto atomico, svolsero indubbiamente un'irrinunciabile funzione deterrente, come nel caso della fortificazione permanente in Alto Adige. E contribuirono a rafforzare l'immagine della NATO nei confronti dell'Unione Sovietica e dei paesi aderenti al patto di Varsavia. La guerra fredda, infatti, non fu soltanto un conflitto politico-militare, ma un vero e proprio modo di vivere un'atmosfera di inquietudine che avvolgeva e condizionava la società in tutte le sue dimensioni. Un modo di concepire e guardare l'altro come un nemico, analogamente a quanto sta avvenendo ai giorni nostri. Anche se però in quel periodo l'altro era colui che abitava al di là della cortina del ferro, dietro al muro, al famoso muro. Questa particolare condizione diede forte impulso alla costruzione e sviluppo di una peculiare tipologia di fortificazione permanente. Bunker, basi segrete sotterranee, rifugi antiatomici, strutture per la difesa aerea, basi per il lancio di missili, come questa, che era qui vicino. Questa è la base che avevamo a Passo Coe, nel Trentino. Oppure c'era la base di Naz Chaves, che molti conoscono, dove ci sono state le testate degli americani, custodite per tanti anni. Oppure c'erano dei centri di ascolto radar, come nel caso della Plose, anche quelli, qui a casa nostra. Quindi noi, oltre alla fortificazione permanente, avevamo tutta una serie di installazioni volute dalla NATO proprio perché eravamo sul confine. L'Alto Adige e il Friuli sarebbe stato in prima linea in caso di attacco sovietico che l'intelligence militare si aspettava provenire dalla Cecoslovacchia, quindi dai nostri vicini di casa attraverso l'Austria. Insomma, troviamo tutta una serie di strutture militari segrete, delle quali spesso si disconosceva il reale ruolo, come nel caso dei bunker dell'Alto Adige, che fino a pochi anni fa, fino a quando abbiamo pubblicato il libro nel 2005, nessuno sapeva che erano pronti all'uso per la guerra fredda, no? Si sapeva che li aveva costruiti Mussolini, si sapeva che erano lì, ma che fossero pronti e armati fino agli anni 90 pochi lo sapevano. Questo libro, appunto, analogamente ai precedenti che ho appena citato, Bunker uscito nel 2005 e Itinera che è uscito lo scorso anno, vuole aprire un varco, costituisce una sorta di passaggio segreto che porta nell'affascinante e misterioso mondo delle basi segrete militari. Una porta che permette a tutti di conoscere un aspetto fino ad oggi sconosciuto della storia militare del nostro paese, anche perché molto recente. Nel 2014, quindi l'anno scorso, per la prima volta abbiamo avuto l'opportunità, grazie alla disponibilità dell'esercito italiano, di entrare in questi siti. Lo stupore e la meraviglia, sia mia che degli altri autori, è stata veramente immensa. Varcata la porta che ci separava dal mondo conosciuto, siamo entrati in una realtà affascinante che ci ha rapito. Davanti a noi abbiamo trovato vere e proprie città sotterranee, di cui poi approfondiremo. Un organismo vivente, anche se ormai sopito, perché in disuso, in grado di resistere autonomamente di fronte ad un conflitto atomico, che all'esterno avrebbe spazzato via ogni forma di vita. A tale scopo va sottolineato che Westar è stato costruito come bunker antiatomico, mentre Backyard, che costituiva una base di appoggio a Westar, non presenta questa fondamentale caratteristica. Però vediamo ora da vicino di cosa stiamo parlando. Westar, il sito più importante, si trova nel comune di Affi ed è ricavato all'interno delle pendici del Monte Moscal, a pochissima distanza dal centro commerciale che tutti noi conosciamo. Backyard, invece, anch'essa ricavata all'interno della montagna, si trova nel comune di Grezzana, alle porte di Verona. Qui si vede bene la posizione sulla pianta. Queste due ubicazioni furono scelte in quanto nella città scaligera di Verona, precisamente a Palazzo Carli, si trovava il comando delle forze terrestri alleate del sud Europa, l'Aftase, cui abbiamo accennato prima, che era guidata da un generale di corpo d'armata italiano. L'Aftase era le dirette dipendenze del comando delle forze alleate del sud Europa, con sede a Napoli, e guidato da un generale americano. Al vertice della piramide troviamo il comando supremo alleato in Europa, anch'esso guidato da un generale americano, con sede prima a Parigi e poi a Costoz in Belgio. Vediamo che due delle importanti centri di comando della NATO si trovavano in Italia, quindi questo che abbiamo detto prima, appunto, che l'Italia era una posizione molto strategica in quanto proprio all'interno del Mediterraneo, è dimostrato dal fatto che la NATO aveva due importantissimi comandi proprio qui da noi. Palazzo Carli fu scelto in quanto già sede di vari reparti dell'esercito italiano. La maggior parte della forza armata italiana, in caso di guerra, era assegnata alla NATO, ma conservava però la dipendenza di comando dalla catena gerarchica italiana. Nel 1955 nacque la Quinta ATAF a Vicenza, che riunì attorno a sé tutte le forze aeree assegnate alla NATO, comprese quelle statunitensi presenti sul suolo italiano, agli ordini anche qui, ancora una volta, di un generale di squadra aerea italiano, quindi terza componente fondamentale della NATO, ancora in Italia. La necessità di proteggere questi due comandi, Ftase e Quinta ATAF, in caso di attacco nemico, fece sì che nel 1958 fu avviata la progettazione di due siti protetti. La scelta cadde per l'appunto sul Monte Moscal, vicino ad Affi, dove fu realizzata Westar, e su Grezzana. Novità assoluta rispetto a quanto fino ad ora progettato fu che queste due installazioni non avevano alcun tipo di armamento, ma solamente funzione di centro comando, quindi erano degli enormi rifugi antiaerei, ma non avevano comunque, non erano armati, quindi erano veramente solo le sedi operative. Per dovere di cronaca bisogna citare che oltre a questi due siti, nel 1962 fu realizzata sul Monte Venda, nei Colli Euganei, un'ulteriore base segreta che ospitò il primo ROC, il Regional Operation Center, e che entrò nella sua piena efficienza nel 1965, con funzioni di coordinamento della difesa e offesa aerea. Questo sito è attualmente in fase di studio, infatti dalla foto vedete che lo stiamo ancora esplorando. Il 6 luglio 1966 Westar, detta anche Stella d'Occidente in italiano, divenne operativa. Con i suoi 13.000 metri quadrati fu il più grande bunker antiatomico in Italia. La parte operativa occupava circa 4.000 metri quadrati, altrettanti per le apparecchiature e i sistemi di mantenimento in vita della base, le riserve d'acqua, l'aspirazione, filtrazione e distribuzione dell'aria, gli impianti elettrogeni, e circa 5.000 metri quadrati occupati dal tunnel d'ingresso e dai cunicoli di collegamento interni. Come possiamo vedere da questo rilievo, il sito era realizzato su più piani, collegati fra loro da scale interne. Alla struttura interna si accedeva attraverso una galleria con due entrate, alfa e beta, unici elementi visibili dall'esterno. Voi arrivate a Westar, l'unica cosa che vedete è questo cancello, poi non si vede altro. La cosa che ci ha colpito quando siamo arrivati è che sembra un normale deposito, cioè nessuno va a pensare a quello che c'è dentro questa montagna, non c'è una torretta di controllo, non c'è niente, c'è un cancello da cui si entra in uno spiazzo e da questo spiazzo si entra poi in quest'altro cancello. Quindi sembra una cosa molto molto molto semplice, no? Non... L'esercito, sì. Però, come dico, anche qui il mimetismo, uno pensa a una base di questo tipo dovrebbe essere super protetta, super posti di controllo dappertutto. Invece no, tu arrivi lì e anche quando era operativa era così. Quindi veramente molto efficiente da questo punto di vista. Oltre ai due ingressi, il sito era inoltre dotato di un'uscita di emergenza. Al tunnel si accedeva con un trenino elettrico che faceva da spola tra i due ingressi. Il tunnel è lungo 1,5 km, quindi bello lungo. Entrambi gli accessi erano dotati di fornelli da mina e in caso di attacco sarebbero state fatte brillare alcune cariche di esplosivo, rendendo così Westar di fatto inaccessibile. Il sito era dotato di sistemi di protezione antinucleare, antibatteriologica e chimica. Inoltre vi era un sofisticato sistema di comunicazione antintercettazione. Gli accessi erano controllati 24 ore su 24 dai carabinieri, che facevano anche servizio di ronda in coppia. Per accedere chiunque doveva essere munito di un pass di riconoscimento, che dava diritto di accesso solamente alla zona di competenza. Nessuno poteva circolare liberamente all'interno del sito. E ciò contribuì in maniera rilevante al mantenimento del segreto e della sicurezza. Ognuno sapeva solo cosa c'era nella sua stanza, nel suo ufficio, ma non sapeva cosa c'era nell'altra parte della base, no? Quindi chiunque anche avesse raccontato qualcosa poteva solo raccontare un piccolo pezzettino di quello che realmente c'era all'interno della base. Solamente chi era in possesso del pass di prima classe, quindi gli alti comandi, potevano accedere alle zone più segrete della base. Questo aspetto ci ha creato parecchi problemi legati al reperimento delle informazioni contenute in questo libro. Molteplici sono state infatti le persone che abbiamo dovuto intervistare, chiedere a ognuno qualcosa, ognuno ci ha fornito un tassello del puzzle che piano piano abbiamo cominciato ad assemblare. Tutt'oggi mancano ancora molti tasselli, devo dirlo veramente, a causa anche della scarsa reperibilità dei documenti che fino a pochi anni fa erano classificati come top secret. Il fatto poi che i siti rientrassero in ambito NATO non migliora le cose, perché negli archivi italiani non ci sono documenti inerenti a Westar e a Backyard. Questa pubblicazione costituisce un primo timido tentativo di svelare questo affascinante mondo, a cui spero ne seguiranno in futuro altre sempre più ricche di informazioni e di notizie. Il comando opera e la logistica della base erano gestiti dal personale militare di Ftase, guidati da un tenente colonnello. La struttura era operativa H24, ossia 24 ore su 24, con due turni di 12 ore, il day shift dalle 8 alle 20 e il night shift dalle 20 alle 8. Gli orari per la colazione erano alle 6, pranzo alle 12, cena alle 18 e alle 24. La zona denominata tecnica ospitava apparecchiature elettroniche per la comunicazione, generatori elettrici e diesel, impianti di filtraggio dell'aria e condizionamento e impianti di depurazione dell'acqua. Qui vediamo alcune di queste sale dove troviamo tutti questi macchinari. All'interno di Westar troviamo quattro enormi cisterne per lo stoccaggio dell'acqua che potevano contenere fino a 120.000 litri. Prima di essere immessa negli impianti di distribuzione, l'acqua veniva trattata e filtrata. Sono inoltre presenti docce per la decontaminazione da radiazioni nucleari e sono ubicate nell'immediata vicinanza degli ingressi. Poi abbiamo la mensa con la cucina, l'infermeria, svariati locali per lo svago, una palestra, i dormitori e i locali per l'attività operativa. Il sito era in costante collegamento con tutti i principali comandi della NATO. Attraverso un cavo in fibra ottica, le informazioni venivano trasmesse da Westar al bunker appoggio di San Michele, che si trova nelle immediate vicinanze della base, e da lì ritrasmesse al ponte radio di Cavriana, sempre in provincia di Verona. Cavriana era uno dei nodi principali della rete Ice Hike System, una rete di comunicazione che attraversava l'Europa, dalla Turchia alla Danimarca, qui vediamo proprio lo schema della rete, ed era direttamente collegata con una seconda rete che attraversava la Groenlandia, l'Alaska e il Canada con gli Stati Uniti. Questa rete di telecomunicazioni era denominata Sistema di Telecomunicazioni Terrestre Europeo Nordico Statunitense di Allarme Immediato. Negli anni venne introdotto un nuovo sistema di connessione che utilizzava il computer e dal 1983 venne denominato MILNET, Military Network. Si era agli albori di quello che oggi comunemente chiamiamo Internet. Infatti la rete è stata creata dai militari e poi aperta e messa a disposizione a tutto il mondo. All'interno della base era attiva H24 anche l'AOC, cioè l'Air Operation Center della quinta ATAF, ovvero la sala operativa. In tempo di pace sovraintendeva tutte le funzioni di difesa aerea in collaborazione con i SOC, i Sector Operation Center, dislocati all'interno dei ROC. Ne abbiamo tre in tutta Italia. Uno, appunto, ho detto prima, sul Monte Venda, uno è vicino a Roma e un altro è giù, in Puglia. L'intera base veniva attivata e resa completamente operativa nel corso delle esercitazioni della NATO, che si tenevano tutti gli anni. Tali esercitazioni consistevano in operazioni di guerra simulata, dove due fazioni, contraddistinte da colori diversi, simulavano un attacco e la relativa difesa. Durante questi periodi, Westar diveniva la sede di comando. Ogni giorno, alle 17 esatte, nella war room della base, si riunivano i comandi di Ftase, Quinta ATAF e Com Strike Force Out, il comando navale della Sesta Flotta, per decidere le operazioni per il giorno successivo. L'ultima esercitazione che vide coinvolta Westar si svolse nel novembre del 2004, quindi pochi anni fa. La capienza della base poteva essere al massimo di 500 persone. Durante il normale periodo, al di fuori delle esercitazioni, operavano 30-40 militari addetti alle trasmissioni, una trentina di civili per la manutenzione degli impianti e un'ulteriore trentina di persone addetti alla difesa aerea. Westar si avvaleva di alcune strutture esterne di appoggio, un eliporto, che qui vediamo indicato con il 6, nella zona di Albare. Poi abbiamo due bunker per le trasmissioni, uno a San Michele, che è praticamente nell'immediata vicinanza dell'uscita beta della base. Il bunker San Michele, il 4, è vicino a Cavaillon Veronese, mentre il bunker del Monte Moscal si trova vicino all'uscita del gate beta. La base di Westar rimase operativa fino al 2007, ben oltre la fine della Guerra Fredda, quando ormai sciolti sia l'Aftase che la Quinta ATAF, non ebbe più nessun compito da svolgere e passò alle dipendenze del Quinto Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano, che da cui dipende ancora oggi. Sebbene la base sia stata chiusa e non venga più utilizzata, rimane tuttora sotto lo stretto controllo dell'Esercito Italiano. Analoghe funzioni aveva anche Backyard, costruita prima dell'opera di Affi nelle vicinanze di Grezzana. Rispetto a Westar è assai più piccola, ha un solo piano ma con le medesime funzioni. Infatti Backyard era stata concepita come base di appoggio a Westar. In qualsiasi momento ci fosse un problema di qualsiasi natura a Westar, sarebbe entrata in funzione Backyard. Non vi racconto di nuovo tutto perché è uguale. Fu chiusa nel 2000 e ceduta dal demanio militare al comune della città veronese di Grezzana, in assoluto stato di abbandono e oggi purtroppo vittima di devastazioni e vandalismo, come spesso accade anche nelle nostre strutture militari. Mentre finché è controllata dai militari almeno rimane tutto così com'è. La difesa antiatomica in Italia non ha mai avuto un ruolo operativo, questo bisogna dirlo, perché grazie a Dio non ci fu, per fortuna, un conflitto atomico. E quindi entrambe queste basi furono utilizzate solo per le esercitazioni. Se fossero entrate in funzione realmente, probabilmente oggi non saremmo qui, perché chiaramente in caso di conflitto atomico la storia sarebbe andata ben diversamente da quello che abbiamo oggi. Ciò nonostante, il sistema di difesa in Italia, sia terrestre che aereo, fu sempre attivo e pronto ad intervenire in caso di attacco delle forze del Patto di Varsavia. Anche dopo la conclusione della Guerra Fredda, siti come Westar e Backyard, pur avendo cessato il loro compito strategico, rimasero comunque top secret fino ai giorni nostri. Si conosceva infatti da tempo la loro posizione, ma non la loro funzione e la loro storia. Io avrei concluso, vi anticipo la prossima uscita, faccio un po' di pubblicità, eccola qui, questo ormai è in stampa ed è, si chiama Bolzano sotto le bombe nella seconda guerra mondiale, quindi sicuramente interesserà di più i cittadini di Bolzano perché racconta la storia dei rifugi antiaerei e delle postazioni della contraerea intorno alla città. Se volete, se non vi ho annoiato, avrei un piccolo filmatino, sì. È una cosa proprio fatta così, la prima volta che siamo entrati a Westar avevamo dietro una telecamerina di quelle piccoline, abbiamo fatto delle riprese, volevo farvelo vedere non perché sia un filmato eccezionale, ma perché forse più delle foto vi può far rendere conto quanto questo bunker sia veramente esteso, perché le foto danno un'idea delle sale così, però camminare nei corridoi e soprattutto passare di sala in sala, se adesso riesco a farlo partire, vediamo, sperando che vada. Thank you. vengono portati via solamente i computer e le... ma gli archivi, alcuni archivi c'hanno ancora dentro tutte le carte. Thank you. abbastanza inquietante, direi, vero? Soprattutto se qualcuno ha aperto l'Alto Adige oggi. C'era proprio seconda pagina, qualcuno sta pensando di riattivare le armi nucleari, no? Quindi ci troviamo di nuovo di fronte a... Poi mi ricordavi che oggi è una giornata particolare. Sì, oggi è una giornata presidente. Noi l'abbiamo fatto apposta ovviamente a presentare il libro oggi, perché è tutto calcolato, no? Il 10 dicembre del 1948, esattamente 67 anni fa, venne firmata a Parigi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 30 articoli promossi dalle Nazioni Unite che sancirono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona. Quindi sono 67 anni che questi diritti vengono calpestati. Adesso lo sapete. C'è qualche domanda? Ma sono ancora utilizzabili, diciamo, se occorresse? Westar forse sì. Diciamo che Westar è dismessa, ma con una spesa di recupero potrebbe essere riattivata. Il problema è che Westar ormai è conosciuta, non è più un posto segreto, quindi sicuramente i militari in questo momento stanno lavorando altrove. Però sì. Becchiari invece, che è in totale stato di abbandono, è stata devastata, distrutta, sono entrati a rubare il rame, sicuramente no. Ma il fatto stesso che comunque l'esercito abbia ancora in mano questa base e non si decida a farne qualcosa, c'è stato un periodo in cui volevano passarla al comune, però il comune ha detto: io non sono in Alto Adige, io non ricevo i contributi che ricevono i comuni in Alto Adige, solamente per mettere in sicurezza Westar e per renderla accessibile al pubblico bisogna spendere qualcosa come 300-400 mila euro. Quindi è chiaro che un piccolo comune non ce la può fare, la provincia del Veneto neanche meno. Quindi io dico, per fortuna che questa base ancora è presidiata dai militari, perché lo vediamo quello che sta succedendo qui da noi con le basi che sono passate, che i militari hanno dismesso e non sorvegliano più, sono terra di nessuno, no? quindi diciamo di sì, ecco. Io penso che comunque loro stanno sicuramente lavorando da altre parti. È di questi giorni la notizia: hanno appena dismesso il secondo ROC a Roma, a Montecavo. Probabilmente a dicembre mi tocca andare a fare qualche foto, e quindi sicuramente i siti conosciuti li stanno dismettendo e probabilmente non li utilizzeranno più. Magari, e me lo auguro, fra 20 anni saremo qua a raccontare la storia di qualche altra base che oggi non, cioè, che oggi non conosciamo. Anche, no? Quella della storia della guerra sì. fredda. Sì, la storia è molto recente, si sa pochissimo. Noi continuiamo a scoprire, continuiamo a lavorare, spinti un po' da questa bramosia alla Indiana Jones di essere sempre i primi a entrare in questi posti. E quindi andiamo avanti, ecco, finché ci consentono di entrare. Ecco, qui veramente bisogna ringraziare l'esercito che ci ha autorizzato a entrare, ma che ci ha soprattutto autorizzato a pubblicare il libro, perché chiaramente, essendo ancora di proprietà dell'esercito, abbiamo dovuto mandare a Roma la bozza del libro, farci autorizzare tutto quanto. E quindi, se qualcuno è interessato, io ho qua delle copie che mi ha lasciato l'editore in conto vendita, se qualcuno vuole approfondire la storia. Parla delle basi NATO, si pensa sempre alla Sardegna, no? Sì. Io sono stata a Maddalena. Un paesaggio lunare, una cosa allucinante, allora non da girare i soldi che sono stati spesi e che ancora sono depositati là. A parte che io c'ero anche negli anni 70 e 80, c'era ancora mio marito che per 57 anni ha fatto un liceo scorso di maggio, e siamo andati a vedere quanto era quasi possibile vederli ancora in Africa. Sì, sì. È impressionante. Io sono entrato in alcuni bunker ancora attività, chiaramente senza macchina fotografica, senza niente di niente, perché ne abbiamo a Martina Franca, c'è ancora un bunker antiatomico, a Gedi ci sono gli americani, probabilmente ci sono anche bombe che noi ancora pensiamo di non avere più, ma Ghedi c'è la base militare, l'aeroporto di Ghedi c'è la zona militare americana dove non entra nessuno, neanche chi lavora nella base, no? Un po' come succedeva a Nachiavez c'era una base dentro nella base, avevamo la base italiana presidiata dai militari italiani, all'interno avevamo invece una base americana dove nessuno poteva entrare, neanche gli italiani, dove erano stoccate poi le famose sembra, perché traccia non ce n'è, comunque negli anni 50 c'erano le testate nucleari, no? Nessuno sa qualcosa di queste testate, ci sono anche lì tante leggende che le hanno portate via con gli elicotteri, che le hanno portate via con i camion dalla Ferca, se ne sentono di tante anche lì, quindi forse comunque sì, insomma, c'è da stare poco allegri, soprattutto perché uno dice vabbè, la guerra fredda è finita, invece qua abbiamo una guerra calda dietro proprio di nuovo nel Mediterraneo, dove siamo di nuovo dentro in pieno, e quindi ormai viaggia sulla rete, no? C'è una guerra. Sì, esatto, ormai è una guerra, la guerra è cambiata, diciamo, però gli effetti sono sempre quelli, no? La devastazione, se poi veramente si parla di tornare al nucleare, allora sì che siamo veramente messi bene, no? Perché di fronte a un'esplosione nucleare non c'è scampo, insomma, non c'è poco da fare. Anche questi qui che erano chiusi dentro a Westar. Ma loro vivevano dentro? Adesso non ho capito, durante il giorno oppure... No, allora la base, una parte della base era operativa 24 ore al giorno. Sì. Quindi c'era sempre dentro del personale, sia militare che civile, che lavorava. Chiaramente il grosso della base diventava operativo solo nel caso di esercitazioni o nel caso di scoppio della guerra atomica, no? Quindi solo una piccola parte era, mentre i nostri bunker ad esempio qua erano pronti ma non c'era nessuno dentro. Westar sì, perché il primo ROC aveva appunto la quinta ATAF, aveva proprio il suo centro comando all'interno di Westar, quindi quello era operativo 24 ore al giorno. Dormivano dentro, chi faceva i turni dormiva, c'erano le camerate, poi è chiaro che questa gente non è che stava dentro, quindi avevano appunto questi turni che ho detto prima, uno di giorno e uno di notte, che andava dalle 8 di mattina alle 8 di sera e dalle 8 di sera alle 8 di mattina, quindi durante questo periodo erano dentro, poi chiaramente dormivano, mangiavano, facevano colazione, e poi uscivano, entravano gli altri, insomma c'era un continuo ricambio. Chiaro che in caso di conflitto nucleare sarebbero rimasti dentro, potevano sopravvivere forse un mese, però poi diciamo che questo era il centro di coordinamento, no? Quindi quando i russi arrivavano a Verona ormai c'era poco da fare, no? Cosa coordinavano? Non avrebbero più coordinato niente, perché vuol dire che tutte le basi missilistiche, tutte le basi dell'aeronautica, era tutto perso, era tutto perduto, quindi a quel punto lì non aveva più senso. Per realizzare questi antecipati sotterranei in maniera che avesse messo qualche tempo, comunque non solamente ditte militari ma anche ditte civili. No, hanno lavorato ditte civili, sì. Guarda, hanno iniziato con la progettazione nel 58 e la base è diventata operativa nel 66. Quindi non è forse tanto segreta, credo. Era segreta perché le ditte civili hanno sì, allora come ho detto prima, si conosceva l'ubicazione di questa base, cioè anche la gente che abitava lì sapeva che c'era questa base, ma cosa realmente rappresentava questa base nessuno lo sapeva, perché chiaramente dal momento che poi è stata terminata sono entrati i militari e solo loro sapevano qual era la funzione di questa base. Certo, è impossibile tenere segreto un bunker di questo tipo. Sì, sì, no, ma i lavori sono durati tanti anni, quindi chiaramente anche la gente del posto vedeva i camion che andavano avanti, si sapeva che veniva costruito qualcosa, però quando non sai cos'è, sai che c'è, però non hai la più pallida idea di quello che realmente rappresentava questo sito. Come ho detto, serviva anche come deterrente. La NATO voleva far vedere ai paesi, perché la guerra fredda in realtà è stata una guerra non combattuta, è sempre stata una prova di forza tra le superpotenze, come dire guarda che io c'ho questo, guarda che come fanno i bambini, no? Io c'ho questo carro armato, io c'ho questo missile, io c'ho questa base, tu cosa c'hai? Cerchiamo di non di non arrivare allo scontro, no? Però chiaramente dovevi sempre far vedere al nemico che avevi qualcosa di... quindi tu eri in possesso di queste grosse basi segrete in cui dentro chi lo sa cosa succedeva, i russi dicevano che avevano delle armi pazzesche, poi si è scoperto che in realtà anche quello era tutto un bluff, no? Sembrava che i russi, quando io ero ragazzino, i russi erano, mamma mia, non plus ultra in quanto riguarda l'aeronautica, poi in realtà invece si è scoperto che così non era, che ci sono dei prototipi che sono andati avanti per 20 anni e non sono mai entrati in produzione. Quindi tuttora i sovietici hanno degli aerei obsoleti, volano con degli aerei molto vecchi, non hanno i soldi adesso per produrre su grande scala gli aerei nuovi, no? Quindi era sempre un far vedere io questo, farti credere che lo stesso... Quasi livelli, questi qua sono stati strumenti di pace. Alla fine sì, perché ognuno dei due aveva paura di attaccare l'altro, no? E quindi così si riesce a mantenere la pace. Sarà triste a me per il momento. E però è così, nel senso che per mantenere la pace purtroppo ci vogliono le armi. Cioè, lo vediamo tutt'oggi, no? Dare un'occhiata, come dall'altro lato si pianificavano il nostro annientamento. Ah sì, sarebbe molto interessante. Sì, sicuramente c'è qualcuno dall'altra parte che sta facendo il nostro lavoro. Mi auguro che prima o poi qualcosa venga fuori, perché avranno avuto anche vorranno ancora roba obsoleta. Ah, sicuro. Saranno a corto di là, sotto mani. Sicuro. E gente che si preparava alla guerra, sai? Ma i russi sono sempre stati molto, a differenza di noi, insomma, hanno sempre parlato poco e hanno agito, no? Lo dimostrano anche oggi, Putin lo sta dimostrando, che è lui che ha in mano le redini di questo pianeta, cioè gli americani sì, fanno, dicono, brengono, poi alla fine chi è che sono quelli che agiscono? Ancora adesso sono i russi, quindi chiaramente la NATO aveva paura della Russia, no? E soprattutto una volta che... il confine era qui, perché c'erano tutti i paesi aderenti a NATO, ai paesi che adesso sono diventati europei, prima facevano parte del patto di Varsavia, quindi dalla Jugoslavia in là noi li avevamo dietro casa, no? Bene, c'è qualche altra domanda? Ah, avete visto che è grande? Ecco, quello che avete visto è un terzo. Non potevo farvela vedere tutta, se no domani mattina eravamo ancora qua. Ecco, è solo un terzo quello che avete visto nel filmato. Era un po' la creazione Goldfinger, no? Sì, vero, poi con questa musichetta un po' strappolata da un film di guerra. Grazie a voi.